Repubblica di Platone, libro VII. Un racconto simbolico di questo genere ti rappresenterà nostra naturale condizione in quanto intervenga opera formativa atta ad educare e in quanto tale opera venga meno. Cerca di vedere, dunque. Gli uomini sono come in sotterranea dimora che ha la forma di una caverna, e questa caverna presenta l'ingresso spalancato e rivolto alla luce, esteso quanto la caverna è larga. Quivi, fin da fanciulli, inceppi le gambe e il collo, gente cui si concede soltanto restare in quel luogo, guardar soltanto davanti a sé, incapaci per causa di quei ceppi di volgere il capo in giro. E vi è una luce di fuoco, dall'alto e da lungi, che arde dietro alle spalle. Intermedia poi tra il fuoco e i prigionieri passa più in alto una via, lungo la quale devi immaginar costruito un piccolo muro. Non diversamente i burattinai innalzano un palco fra sé e gli spettatori, e al di sopra rappresentano tante belle cose. «Vedo», rispondeva. «E allora cerca di vedere alcuni uomini lungo questo muricciolo. Essi portano ogni sorta di oggetti e spuntano fuori dal muricciolo, per esempio statue, immagini in pietra o in legno, in ogni guisa lavorate. Come accade, poi, alcuni di questi passanti, portando gli oggetti, parlano, altri stanno zitti». «Che strano racconto!» esclamò. «Strani anche questi prigionieri!» «Eguali a noi!» dissi. «Perché questa gente, intanto, ne sarai convinto, non avrà mai potuto vedere il proprio corpo, nemmeno quello dei compagni. Soltanto ombre proiettate dal fuoco nella parete della caverna davanti al volto. E come vuoi che sia altrimenti?» soggiunse, «se per tutta l'esistenza sono costretti a tenere immobile il capo. E cosa vedranno degli oggetti trasportati? Non sarà la medesima cosa?» «Sì, indubbiamente. Supponi ora che i prigionieri abbiano facoltà di parlare tra loro. Saranno convinti d'una cosa, ne puoi star sicuro. Chiamando con un nome le ombre che vedono, crederebbero di chiamare a nome la cosa vera e propria. Sì, è necessario. Supponi ancora che la prigione abbia un eco, proveniente dal fondo, e che uno dei passanti emetta qualche voce. I prigionieri non potranno far congettura diversa. Questa cosa parlante è l'ombra che passa dinanzi a loro. È proprio così. Insomma, seguitai, i nostri prigionieri penseranno che le ombre di quegli oggetti manufatti sono la verità. Certo, rispondeva. E ora osserva il caso che qualcuno sia liberato da quei ceppi e che quella condizione di profonda ignoranza venga al fine medicata. Il che potrebbe avvenire, ammessa per natural ragione questa serie d'eventi. Uno è liberato, è fatto alzare per forza, improvvisamente. Gira il collo, cammina, volge lo sguardo in alto, verso la luce. In tutte queste operazioni il nostro prigioniero non mancherebbe di provar dolorose impressioni, così pure il bagliore di quella luce lo metterebbe nella impossibilità di veder gli originali di cui poco fa poteva scorgere le ombre. Se si dicesse al nostro prigioniero che poco fa scorgeva cose vane, ora invece oggetti molto più vicini alla realtà. «Tu vedi», gli si dice, «in modo più conforme al vero, rivolto come sei a una realtà più piena». Anzi, facendogli vedere a uno quegli oggetti che passano, lo si costringe con domande a dire che cosa sia ogni oggetto. Cosa credi che il nostro prigioniero potrebbe dire? «Certo, si troverebbe in difficoltà non piccola, e stimerebbe le figure che vedeva prima più vere degli originali che gli vengono additati ora». «Non c'è dubbio». «E allora, supponi, lo si costringe a volgere lo sguardo proprio verso la luce, un'impressione alle pupille dolorosissima. Certo, volgendo le spalle fuggirebbe per tornare verso quelle figure e quelle ombre che si possono vedere così bene. Certo, giudicherà che queste ombre sono effettivamente più chiare di quanto gli si mostra ora». «Così», rispondeva. «E poi», dissi io, «qualcuno lo strappa via di là, a violenza, in alto, per la via erta e ripida, e non lo lascia andare, ma lo strappa fuori, in piena solare luce. Non credi che continui sarebbero i lamenti del nostro prigioniero? Lo sdegno suo non avrebbe più limiti, sentirsi così strappato. Intanto, giunto alla grande luce, gli occhi suoi sono oppressi da fulgore. Non può scorgere nemmeno uno degli oggetti che gli si dicono veri. Non può, rispondeva, così improvvisamente poi. Già, dovrebbe abituarsi a quell'immensa luce per vedere le cose che stanno in alto, e intanto, con minor disagio, potrà scorgere le ombre, in un secondo momento le immagini, riflesse nell'acqua, d'uomini e d'altre creature, quindi le creature e le cose vere e proprie. In una fase successiva potrà con minor disagio contemplare durante la notte i corpi celesti. Volgerà così lo sguardo alla luce della luna e delle stelle, con minor difficoltà che non durante il giorno al sole e alla sua luce. Come no? E ultimo, per certo, potrà ammirare il sole, non nell'acqua, non in estranee sedi, in riflesse immagini, ma lui, per se stesso, nella sua stessa sede, potrà contemplare in lui quale veramente è fissar la pupilla, necessaria conseguenza, e solo allora, in un successivo momento, potrà formulare esatta conclusione circa il sole. È il sole che produce le stagioni nel corso degli anni, il sole che a tutto presiede in questo regno dell'essere visibile, anzi, in certo senso, il sole è la causa di tutti quei fenomeni che i prigionieri vedevano. Oh, è chiaro, rispondeva, giungerà a queste conclusioni dopo le prime. Senti adesso, egli certo serberà vivo il ricordo della sua prima dimora, della sapienza di laggiù, dei compagni che un tempo aveva nel carcere. E non credi che si giudicherà ben fortunato per aver mutato condizione, che sentirà anzi un senso di compassione immensa per la gente prigioniera. Certo, onorificenze, eventuali reciproche lodi di quella gente prigioniera. Certo, essi tenevano in conto di grand'uomo il prigioniero capace di figger la sua pupilla di lince su quell'ombre, il prigioniero che in modo perfetto sapesse conservare il ricordo di quell'ombre e potesse dire quali abitualmente trascorrevano prima, quali dopo, quali contemporaneamente. Oh, con questo metodo il grand'uomo prigioniero acquistava un'abilità particolare a indovinar l'ombre che in futuro sarebbero venute. Ebbene, puoi pensare che ci sia ancora in quel liberato interesse alcuno, desiderio o sentimento alcuno di invidia per i grandi uomini, per i magnati di laggiù? Piuttosto sorgerebbe in lui l'impressione di cui parla Omero. Egli ardentemente desidererà, contadino essendo, servire ad un uomo da nulla e sopportare qualsiasi sciagura, piuttosto che credere alle opinioni di là, piuttosto che vivere in quel modo. Così, sì, rispondeva, ne sono convinto, accetterà anche la condizione più umile piuttosto che vivere in quel modo. Ma rifletti anche al seguente caso. Può avvenire che quest'uomo, una seconda volta, debba discendere giù e debba assidersi nel luogo di prima. Certo avrebbe gli occhi pieni di tenebre, egli, venuto per subito trapasso dalla luce e dal sole. Certo, rispondeva. E lui dovrebbe una seconda volta pronunciar giudizi su quell'ombre, attento in gara con gli altri prigionieri, quelli che prigionieri furono sempre. Indubbiamente, fino al momento in cui le sue pupille si possono adattare, egli vede assai male. Supponendo poi che per abituarsi non ci volesse un tempo troppo breve, certo farebbe ridere questo nostro liberato. I prigionieri esprimerebbero il loro giudizio e direbbero che quell'uomo è andato in alto, ma che ora ritorna con le pupille annientate. Direbbero i prigionieri che non vale nemmeno la pena cercare di andare in alto, e lui farebbe continuo sforzo per sciogliere da catene, per condurre in alto, e loro, se potranno riuscire a prenderlo fra le mani e ammazzarlo, non c'è dubbio, l'ammazzeranno. Senza dubbio, assentiva lui. Questa simbolica visione, dunque, mio caro Glaucone, seguitavo, s'adegua perfettamente in ogni suo particolare a ciò che prima si diceva. Il mondo nostro, quello che il senso della vista ci rivela, tu lo devi paragonare al carcere. Il bagliore del fuoco ha la potenza del sole. L'ascensione verso l'alto e la visione di ciò che è in alto ritieni sia il tramite d'ascesa dell'anima verso il mondo intelligibile. Solo in tal modo non cadrai in errore, interpretando il mio pensiero, dato che tanto desideri averne comprensione. Certo, solo Dio potrà sapere se la concezione mia risponde a verità. In ogni modo, ecco le mie conclusioni. Mi pare che, nell'ordine intelligibile, l'idea del bene sia veduta ultima e con grave difficoltà, ma una volta veduta, se ne deve concludere che appunto è l'idea del bene, per tutti, causa di quanto è bene, di quanto è bello. Nel regno visibile produce la luce, il Signore della luce. Nel regno intelligibile, invece, è lei, Signora, che produce verità e intelligenza. E mi pare che chi deve svolgere sua opera intelligente per via spirituale, come uomo interiore o nella vita pubblica, debba arrivare a vederla, questa idea. «Sono d'accordo con te», rispondeva, «per quello che posso capire, ovviamente». «Su via, allora», continuai. «Devi essere d'accordo anche su quest'altro punto. Nessuna meraviglia se quanti arrivano a questa altezza non vogliono più agire secondo la comune misura umana. Costoro hanno un unico desiderio, che l'anima cioè possa prendere definitiva dimora in altezza sublime, il che è logica conseguenza, se anche questo particolare deve accordarsi con la simbolica immagine proposta». «Naturale, certo», rispondeva. «Senti allora, il seguente fatto lo puoi forse ritenere strano? Quest'uomo, dopo aver contemplato divine visioni, perviene alla miseria della vita umana. Ecco, è grottesco quest'uomo. Ridicolo, se prima d'adattarsi alla tenebra che l'avvolge, verrà costretto, in tribunale o in qualsiasi altro luogo, a litigar su quell'ombra di giustizia e sui profili che via via le ombre disegnano, a discutere su teoretiche induzioni di gente che giammai la celeste giustizia ha potuto vedere». «Eh no, affatto strano», rispondeva. «Ma se qualcuno fosse in grado di riflettere», ripresi, «non tarderebbe a ricordarsi che duplici sono i turbamenti della vista e che per duplice causa provengono: in chi trapassa dalla luce la tenebra e per opposta vicenda dalla tenebra alla luce. Tenendo dunque presente che la stessa condizione si verifica anche per la visione mentale, se s'accorgerà che la mente di qualcuno sconvolta è incapace di vedere qualche cosa, quest'uomo che sa non si mette scioccamente a ridere. Al contrario, farà attenzione perché quella mente potrebbe apparire avvolta di tenebra in quanto non ancora a tenebra abituata, essa che proviene da più luminosa vita. Così pure, reciprocamente, da condizione di ignoranza più grande, la mente, ascendendo a luce più viva, si sentirà tutta vinta per più abbagliante fulgore. E questo nostro amico, per conseguenza, considererà la prima un'anima felice e fortunata per quanto è avvenuto e per i frutti che accoglie dalla propria vita. L'altra, invece, desterà in lui un senso di compassione. E ammesso che l'amico voglia ridere, certo meno sciocco sarebbe quel riso che non quello per un'anima che dall'alto, dalla luce, discende». «Oh, hai perfettamente ragione», rispondeva. «È necessario, dunque, che formuliamo a questo proposito la seguente conclusione, ammesso che quanto si disse sia vero. L'opera dell'educatore non si svolge affatto con quelle caratteristiche che comunemente si affermano. Si dice che nell'anima non esiste nessuna conoscenza e che il sapiente ve la infonde tutta. Sarebbe come dire che a cieche pupille si infonde visione. Dicono così, certo. E invece parola, in questo istante, dissi, ci segnala un'altra cosa. deve essere cangiata direzione a questa potenza che è nell'animo di ciascuno, e così pure allo strumento col quale la conoscenza s'acquista. Sarebbe come se l'occhio avesse facoltà di vedere soltanto volgendosi insieme con tutto il corpo da zone tenebrose verso manifestante luce. Non altrimenti è necessario convertere dal divenire l'anima tutta quanta, fino al momento in cui l'anima possa sopportare la visione dell'essere, e dell'essere il punto più fulgente e più luminoso. E questo punto, affermiamo, è il bene. Non credi? Sì. Per conseguenza, dicevo io, vi sarà certo un'arte capace di produrre questo effetto, conversione, che è il modo più facile e sicuro di questo rivolgimento. Non certo sarà capace di infondere nell'organo la visione, bensì a chi possiede questa visione e non è rivolto nel giusto senso e non volge l'occhio là dove si dovrebbe. Quest'arte è in grado di fornire i mezzi per farlo rivolgere verso quel punto. Pare di sì, rispondeva. Le altre virtù tutte quante, che si dicono proprie dell'anima, sono in certo senso analoghe alle facoltà del corpo. Se non ci sono inizialmente, in un secondo momento si possono pure acquistare con l'abitudine e con l'esercizio. Invece la virtù del conoscere è proveniente da principio di gran lunga più divino, che non perde mai la propria efficacia. Soltanto, secondo la direzione nostra, diventa utile e vantaggioso oppure inutile e dannoso. Non hai osservato una certa cosa? Vi sono uomini che la comune opinione ritiene scellerati ma intelligenti. Ebbene, quanto acuta è la vista di quella piccola anima. Certo, la sua capacità visiva non è debole, ma costretta per necessità a farsi serva del male, quanto più acutamente vede, tanto sono più gravi i misfatti che compie. Non v'è dubbio alcuno, rispondeva. Ha una natura così conformata, ripresi, fin dalla prima infanzia, con energico taglio, provati a strappar via quei pesi gravi di piombo, retaggio inerente all'origine umana, pesi che fatti in sembianza d'avidità di cibo, in sembianza di simili piaceri golosi, tutti volgono in giù la vista dell'anima. In tal modo la natura di quest'uomo, liberata da ogni impedimento, potrebbe rivolgersi verso il vero, e non v'è dubbio alcuno che questa medesima natura, in questi medesimi uomini, vedrebbe il vero acutissimamente, come pur vede tanto bene gli oggetti falsi verso i quali oggi è rivolta. Naturalmente, concludeva. Senti ora, vi è una conseguenza naturale e necessaria di quanto si disse. Non saranno capaci di governare bene uno Stato uomini privi di studio e di formazione, al tutto privi di esperienza della verità. Così, d'altra parte, nemmeno chi possa trascorrere la vita interamente negli studi. Gli uni non hanno nella vita l'unica meta, non hanno il punto cui riferire l'intera condotta, vuoi pubblica, vuoi privata. Gli altri, invece, per quanto sta in loro, non vorranno saperne d'azione e d'attività politica. Avranno impressione d'aver emigrato, ancor viventi, verso l'isola dei beati. È vero, rispondeva. Sarà compito nostro allora, ripresi, di noi che siamo i fondatori, saper addurre per necessaria costrizione le nature più elevate a quella dottrina cui precedentemente dicevamo elatissima, portarli insomma a vedere il bene e a salire per quel tramite che mena in su. A costoro poi, una volta arrivati in alto, dove sufficiente sia la visione, non sarà più permesso quello che si permette comunemente. Che cosa? Far dimora lassù e non voler assolutamente scendere di nuovo presso quei prigionieri, partecipar di nuovo alle loro fatiche e ai loro uffici, vili oppure onorevoli. Cosa dici? Non sarà, disse lui, far vera e propria ingiuria. Non li costringeremo forse a vivere in modo più meschino, mentre per costoro è possibile vivere in più alta felicità. Dimentichi, gli dissi, un'altra volta, o caro, che la legge non si preoccupa molto di render fortunata la condizione di un singolo gruppo. La legge cerca di produrre condizione quanto più felice è possibile nella città intera. Perciò, valendosi di persuasione e di costrizione, la legge infonde un accordo tra i vari cittadini, fa in modo cioè che reciprocamente mettano in comune quell'opera di cui ciascuno è capace a profitto della comunità. D'altra parte, consente formazione di spiriti eletti, non per lasciare che ciascuno si volga dove meglio desidera, ma bensì per far uso, essa, la legge, di quei cittadini e legare in questo modo più saldamente l'organismo della città. È vero, rispondeva, me ne dimenticavo. E allora osserva, Glaucone caro, contrariamente a quanto dici, non faremo affatto ingiusto trattamento a coloro che, nella nostra città, riescono filosofi. Bensì sarà giusto il nostro invito, quando li costringeremo a prendersi cura dei propri simili e assumerne difesa. Perché, diremo, è naturale che, nelle altre città, chi assurge a tale altezza non voglia partecipare al travaglio faticoso della vita politica. Costoro, in verità, nascono da soli, spontaneamente, senza che le pubbliche istituzioni se ne prendano cura. E non è quindi contrario a un senso di giustizia se ciò che spontaneamente nasce, in quanto non deve a nulla il proprio sostentamento, non pensi nemmeno a ricompensare qualcuno della propria educazione. Al contrario, noi stessi vi abbiamo dato alla luce, per voi non solo, ma per la patria vostra tutta quanta. Quasi come in un alveare i re e le regine, noi stessi vi abbiamo educati a questo scopo in modo migliore e più completo in confronto di quei filosofi stranieri. Perciò appunto voi dovete essere più atti a congiungere insieme l'uno e l'altro dovere, attività cioè di filosofi e attività di politici. Si tratta dunque di scendere a turno nella comune dimora e adattarsi per abitudine a vedere ciò che è ombra e tenebra. Del resto, se vi abituerete a quell'ombra e a quella tenebra, potrete vedere infinitamente meglio di quanti vi sono, meglio conoscere che cosa rappresentino le singole ombre e di che cosa siano immagine, per il fatto stesso che avete già veduto la verità circa il bello, il giusto, il buono. In tal modo la città, per voi e per noi, sarà governata da uomini desti, non più uomini in sogno come oggi. Quante città vengono oggi governate da uomini che litigano su ombre, uomini che contendono per poter governare, ritenendolo un bene grande. E invece la verità, sta pur sicuro, è in questi termini. Perfettamente governato e senza alcun dissidio, lo Stato in cui chi deve assumere il governo accetta quasi per forza e a malincuore l'incarico. Tutto l'opposto per quello Stato che ha governanti opposti. Purtroppo, rispondeva. Questi nostri alunni avranno cuore dunque d'opporre a tali argomenti un rifiuto. Si rifiuteranno di partecipare alla vita faticosa dello Stato, ciascuno per turno. Potranno, d'altra parte, dimorar lungo tempo, insieme con gli altri, in quella pura regione dell'alto. Non avranno cuore, no, rispondeva. La nostra decisione è giusta, rivolta poi ad uomini giusti. In conseguenza ciascuno si dedicherà alle cure dello Stato per un senso di dovere, proprio il contrario dei governanti d'oggi, nelle singole città. È proprio così, ripresi, mio buon amico, soltanto se sarai capace di disporre, per chi deve governare, una forma di vita superiore alla vita politica, soltanto in questo caso ti riuscirà ad avere una città ben governata. Solo in questa città, infatti, domineranno uomini veramente ricchi, e non ricchi d'oro, bensì quell'elemento di cui deve essere ricco l'uomo fortunato, vita spirituale e intelligente, informata a bontà. Al contrario, se gente mendica e affamata ad un personale vantaggio s'accinge ad amministrar lo Stato, gente convinta anzi di dover prendere a violenza i propri beni, e appunto con questo mezzo, allora quell'ideale non è più possibile. Quando il possesso del potere diventa oggetto di contrasto, l'interna guerra civile che ne deriva finisce per portar rovina ai contendenti e agli altri cittadini. Verissimo, concludeva. Avresti allora modo di citare altri che più del filosofo vero abbia in disprezzo l'attività politica? No, disse lui. D'altra parte, si tratta di rivolgere alla vita politica chi non ne fa ricerca. In caso contrario, chi ne fa ricerca ingaggerà battaglia. Come no? E a chi altri vorrei imporre il dovere di custode della città? Certo, a chi ha perfetta cognizione del come si governa nel modo più perfetto. Tanto più che ben altro onorifico ufficio l'attende, poi, è una vita ben migliore di quella del politico. Certo, nessun altro, concludeva. E io? Avresti piacere se considerassimo un altro aspetto del problema? Si tratta di vedere per quale metodo si potranno formare uomini come questi. Chi sarà capace di farli venire in alto, alla luce? Per simil modo, vi sono taluni che dall'Ade, così si dice, compiono ascensione verso gli dèi. E come non dovrei aver piacere? Rispondeva. Già, ma com'è naturale, non si tratta certo di voltare dalla parte buona il guscio di un'ostrica, come fanno i bimbi. Si tratta di una conversione d'anima, da un giorno che è come notte, verso un giorno vero, una via che mena in alto, la via dell'essere, quel tramite che, diremo, costituisce la vera filosofia. Senza dubbio. E non si tratta forse di indagare quale tra le scienze possegga simile potere. Come no? E quale sarà dunque, o Glaucone, la scienza adatta a strappar da questo regno del divenire e a volgere verso il regno dell'essere? Mentre parlo, mi si presenta la seguente questione. Non si diceva che questi giovani dovevano essere fin dalla prima età guerrieri perfetti? Sì, dicevamo. Ma allora la scienza di cui andiamo in cerca, oltre alla prima caratteristica, deve presentarne anche un'altra. Quale? Non essere inutile ad uomini di guerra. Deve, sì, rispondeva, se la cosa è possibile. Con arti ginniche e con discipline mosaiche, in un primo momento ne abbiamo curato l'educazione. Proprio così, rispondeva. E l'arte ginnica agisce, sai bene, su ciò che nasce e perisce. Sorveglia, vedi, lo sviluppo e il deperimento della vita fisica. Evidente. Ma allora non è questa la disciplina che noi cerchiamo? No, certo. Ma forse ogni disciplina mosaica secondo le caratteristiche che prima esporremmo. E lui, la disciplina mosaica, se ricordi, ci apparve corrispondente, pur opposta all'educazione fisica. Mira infatti a educare nel carattere i custodi, a infondere non certo scienza, bensì seguace all'armonia, tono composto di carattere, a insegnare inoltre seguace al ritmo, armonia opportuna di modi. Se invece si considera l'espressione verbale, ti si presentano caratteristiche affini. Vuoi che si tratti di racconti mitici, vuoi anche di altri più conformi alla verità, ma non c'è affatto una disciplina capace di addurre a quella meta che vai cercando. Oh! Esclamai. Mi rinnovi il ricordo con esattezza perfetta. È un fatto, non c'è proprio un carattere come quello da noi richiesto. E quale sarà mai, mio straordinario Glaucone, questa disciplina? Perché, per cominciare, le alte arti pratiche tutte ci si sono manifestate volgari e meccaniche. Come no? Del resto è un fatto. Quale altra disciplina può restare, se si trascurano le discipline mosaiche, l'educazione fisica, le singole arti? Su via, dissi, se non ci riesce di cogliere nulla a prescindere da queste, prendiamone allora una che le comprenda tutte. Quale? Per esempio, quella comune disciplina di cui hanno bisogno arti, pensamenti, scienze, tutto. Quella disciplina che è necessario apprendere con le primissime cognizioni. Quale? Una cosa da nulla, dissi io. Il saper distinguere l'uno, il due e il tre. Intendo, insomma, a farla breve, la scienza del numero e l'arte del calcolo. Non è forse vero che ogni arte e ogni scienza si trovano costrette ad aver relazione coi numeri? Certamente, rispondeva. E anche l'arte della guerra, non ti pare? Domandai. È costretta, sì, rispondeva. Appunto, continuavo io. E nelle tragedie ogni volta Palamede fa capire che Agamennone è un generale che fa ridere tutti. Non hai osservato? Lui afferma di aver scoperto il numero e di aver saputo disporre sotto iglio le truppe in accampamento. Afferma ancora di aver saputo contare le navi e tutto il resto. Certo, pensa che prima non se ne poteva fare il conto e che Agamennone, par proprio evidente, nemmeno sapeva quanti piedi avesse, dato che non conosceva il numero. Eppure, che razza di generale in questa condizione vuoi che fosse? Un bel tipo davvero, osservò, ammettendo che tutto ciò corrisponda alla verità. In conclusione, non troveremo altra disciplina, dissi, così necessaria per un guerriero che dovrà essere in grado di calcolare e di contare. Ma non v'è dubbio alcuno, rispondeva, dovrà pur capire qualche cosa negli ordinamenti militari. Direi anzi che la cosa è necessaria senz'altro, se vuole essere un uomo. E tu, dissi, hai la mia stessa opinione su questa disciplina? Quale? Può darsi, vedi, che sia per sua natura una di quelle discipline di cui andiamo in cerca, una cioè di quelle che adducono alla noesi o atto mentale puro, e può anche darsi che nessuno faccia retto uso di questa disciplina, pur capace di strappare completamente e di avvicinare all'essere. Come intendi? Domandava. Proverò, risposi, a manifestarti il mio pensiero. Voglio farti bene osservare la distinzione che io pongo con me stesso tra discipline capaci o meno di condurre colà ove stiamo dicendo, e tu concedi o nega. Potremo vedere per tal modo più chiaramente se la cosa è come io vado immaginando. Mostrami come siano le cose. Ecco, sto mostrandoti appunto. Vi sono sensazioni che non richiamano affatto l'intelletto alla riflessione. A darne un giudizio sufficiente basta la percezione semplice. Ve ne sono invece altre che, per ogni modo, invocano l'aiuto della riflessione. La percezione per se stessa, infatti, non ha in sé nulla di preciso. Ah, esclamò, vuoi certamente accennare agli oggetti che ci appaiono di lungi e agli oggetti disegnati in prospettiva. No, non hai colto bene il mio pensiero. E quali sono allora? Percezioni che non richiedono questa riflessione, ripresi, sono tutte quelle che insieme non si risolvono in una sensazione opposta. Quelle invece che si risolvono, ritengo richiedano questa riflessione, quando la percezione, sia che avvenga da vicino, sia da lontano, non indica più determinatamente se la cosa è vicina o lontana. Il mio pensiero, del resto, lo saprai meglio nel seguente modo. Ecco. Diciamo che queste sono tre dita, il più piccolo, un altro dito, quello di mezzo. Sì, benissimo, rispondeva. Considera dunque la cosa come se io ne parlassi, in quanto sono vedute dappresso. Anzi, stammi bene attento su questo punto. Quale? Vedi bene che ciascuno appare in egual misura un dito. In questo senso, nessuna differenza. Le puoi considerare, queste dita, nel posto di mezzo, nell'ultimo posto, siano esse bianche o nere, grosse o sottili, e così di seguito. In tutte queste percezioni, la mente non viene in genere addotta a chiedere alla riflessione che cosa sia un dito. In nessun caso, infatti, la vista propone alla mente, nello stesso istante, un dito e una cosa del tutto opposta al dito. Eh no, è un fatto, rispondeva. E allora, dissi, in questa condizione non è possibile rivolgere richieste alla riflessione e non se ne può quindi ridestare l'attività. Naturalmente. Ma senti allora, ti pare che la vista veda con sufficienza grandezza e piccolezza di queste dita? Ti pare che non ci sia divario alcuno per la vista se un dito stia nel mezzo o se concluda la serie? Parimenti, prendiamo il tatto. Non percepisce forse grossezza e sottigliezza, morbidezza e durezza? E le altre impressioni non forniscono forse in modo deficiente queste qualità? Effettivamente, ciascuna procede così. Per esempio, l'organo del senso, preformato a sentire la sensazione del duro, è costretto a sentire anche quella del molle e trasmette all'anima la sensazione, quasi il medesimo oggetto sia sentito insieme molle e duro. Così, rispondeva, avviene dunque, per conseguenza necessaria, che la mente in questi casi viene a trovarsi in condizioni di incertezza e di difficoltà e si chiede allora che cosa sia questa sensazione di durezza, di dato che per qual modo le è proposta anche sensazione di mollezza. Lo stesso se si tratta poi di qualche sensazione di levità o di pesantezza. Potrebbe infatti avvenire che quanto è pesante le venga manifestato leggero, il leggero pesante. Indubbiamente queste segnalazioni sono assai strane, hanno bisogno di riflessione. Ne viene naturale conseguenza, ripresi, che in questa situazione l'anima comincia a fare attenta indagine e ricorre subito alla riflessione e al ragionamento. Sono uno o due gli oggetti che le vengono segnalati? Indubbiamente. E allora, nel caso che si tratti di due oggetti, ciascuno non appare forse uno e diverso dall'altro? Sì. Dunque, se ciascuno di quei due oggetti è uno per suo conto, se l'uno e l'altro insieme formano due, si potranno anche concepire col pensiero l'uno distinto dall'altro. Se in realtà il due fosse indivisibile, l'anima penserebbe non due oggetti, ma uno solo. Giusto. D'altra parte, stiamo dicendo, la vista vede il grande e il piccolo, ma non come sensazioni distinte, bensì come qualcosa di confuso, non è vero? Sì. Per rischiarare dunque questa confusione del senso, la mente, riflettendo, è portata a vedere il grande e il piccolo non confusi, bensì distinti, tutto al contrario della vista. Vero. E di qui, appunto, sorge a noi un primo incentivo a chiedere cosa sia il grande o il piccolo. Non v'è dubbio alcuno. E con tale criterio, l'uno dei dati, quello della mente, fu chiamato intelligibile, l'altro, quello del senso, visibile. Giustissimo, rispondeva. Così, appunto, cercavo di esprimermi anche poco fa. Vi sono cioè percezioni suscettive di ridestare la riflessione delle facoltà mentali superiori, altre invece no. E definivo suscettive di ridestare la riflessione quelle rivolte a cose che si presentano al sentimento insieme ai loro contrari. Quelle invece che non ridestano la riflessione si presentano in condizione opposta. Capisco benissimo, finalmente. Acconsentì, e mi pare sia così. E allora senti, il numero e l'unità, a quale delle due categorie appartengono? Non saprei, rispondeva. Ma da quanto si disse, puoi dedurre la risposta. Nel caso in cui, con sufficiente esattezza, si possa percepire, vuoi con la vista, vuoi con altra sensazione, l'unità distinta e per sé, allora questa non sarà suscettiva di strappare verso l'oggettività del suo essere. Così appunto dicevamo a proposito del dito. Ma se invece la vista scorge, insieme all'uno, qualche cosa sempre opposta, in modo che l'unità non ci appare se non col suo contrario, in tal caso ci si trova nella necessità vera e propria di cercare un criterio di discriminazione. E l'anima, che si sente molto incerta a questo proposito, dovrà volgersi allora a qualche ricerca, mettendo in moto la propria riflessione. Dovrà rivolgere domanda a se stessa, per sapere che cosa sia l'uno nella pura luce oggettiva dell'idea. Per tal modo, lo studio e la disciplina dell'uno sarebbero suscettive di condurre altrove, di convertere, insomma, verso la visione dell'essere. Ma certo, rispondeva, la vista dell'unità reca in sé appunto questo carattere. L'uomo infatti vede una medesima cosa tanto una che è infinita per moltitudine. Ma allora, se questa è la condizione dell'uno, ripresi, perfettamente uguale è la condizione del numero nella sua totalità. Come no? Ma l'arte del calcolo e la scienza del numero hanno per argomento i numeri. Si capisce. Tutte discipline codeste capaci di condurre a verità. Non c'è dubbio alcuno. Allora saranno certo nel novero di quelle discipline che stiamo ricercando. La loro cognizione si presenta infatti necessaria a un uomo di guerra per gli ordinamenti militari, a uno studioso di filosofia invece perché deve raggiungere l'essere, emergendo fuori dal mare di generazione, e in caso contrario non potrà mai diventare esperto in questa disciplina. È così, rispondeva, e il nostro custode è insieme guerriero e filosofo. Certo, e allora? Ne segue allora un'altra cosa. Sarà conveniente, o Glaucone, che questa disciplina sia resa obbligatoria, e in questo senso pure sarà conveniente farne persuasi coloro che un giorno dovranno avere tra le mani gli interessi supremi della città. Essi dovranno dedicarsi allo studio del calcolo, e dovranno trattare questo studio non per via superficiale. Dovranno giungere a contemplare con pura visione intellettuale l'idea del numero. Questa ne sarà la meditazione che non avrà il fine di comprare o di vendere, come fossero mercanti all'ingrosso o piccoli commercianti, come guerrieri bensì, e in modo particolare come uomini che debbono cercare di facilitare questa conversione dal regno di generazione verso la verità e verso l'essere. Oh, quanto hai ragione, rispondeva. Ma guarda, dissi, ora anche esposte le caratteristiche di questa disciplina, m'accorgo che pur presenta un aspetto veramente elevato e, in molti sensi, utile al nostro scopo. Basta svolgere lo studio, avendo solo di mira una conoscenza superiore, non il commercio. In che senso? Chiedeva. In questo senso. Come si diceva or ora, questa disciplina può condurre in alto con grande vigore l'anima, portando a discutere sul numero nella sua oggettività lo studioso che non accetta per nessun modo come argomento di discussione numeri congiunti a corpi visibili o tangibili. Del resto, sai bene, gli esperti nel caso in cui si cerchi di dividere l'unità astratta in estesa si mettono a ridere e non ne vogliono sapere. Se poi si continua in questa operazione, procedono a moltiplicazione di quell'unità, per evitare che l'uno non appaia l'uno, bensì risulti di più parti. È proprio vero. Supponi dunque, o Glaucone, che si domandasse a questi esperti: illustri amici, di quali numeri intendete parlare? Quelli in cui l'unità presenta i caratteri che voi pretendete che abbia? Unità cioè che singolarmente siano tutte fra loro uguali, senza il più piccolo divario, e che nessuna possibilità di divisione in se stesse racchiudano. Cosa credi che risponderebbero? Ma questo, trattano insomma di ciò che soltanto si può cogliere col pensiero, in altro modo non se ne può fare argomento di trattazione. E non vedi allora, mio caro, che veramente siamo portati a ritenere necessaria questa disciplina? Si vede bene, è una disciplina che costringe l'anima a far uso della pura noesi o atto mentale puro, per cogliere la verità nella sua purezza. Davvero, è un fatto, rispondeva, avviene proprio questo. Senti allora, ti sarai accorto anche di questo. Chi ha inclinazione per questa disciplina è pronto e acuto, direi quasi in ogni altra scienza. Chi invece è lento, nel caso in cui nella scienza del numero venga sufficientemente esercitato ed educato, anche se particolarmente nel calcolo rimane lento e tardo, pur tuttavia riesce più pronto di prima e per entro a questi limiti fa buoni progressi. È così, rispondeva. Eppure sono convinto d'una cosa. Non si potrebbe facilmente trovare altra disciplina che, come questa, costi fatica maggiore al discepolo che la studia. È vero. E allora, per tutte queste ragioni, non la si può lasciare da parte. Si debbono bensì educare in questa le nature più elette. E su questo punto, conclusi, siamo d'accordo. In secondo luogo, dobbiamo vedere se al nostro scopo conviene la disciplina che tiene dietro a questa. Quale? Intendi certo, aggiunse, la geometria. Questa precisamente, replicai. E Glaucone, per quanto al rapporto con la pratica di guerra, non v'è dubbio, questa disciplina serve ai nostri scopi. Quando infatti si tratta di stabilire un accampamento, d'occupare una posizione, di tenere le schiere in ordine chiuso o in ordine sparso, insomma, in tutte le evoluzioni normali per un esercito, proprio in battaglia o nelle marce, vi sarà certo una grande differenza tra chi conosce la geometria e chi non la conosce. In ogni caso, continuai, se questo è lo scopo, ben poca geometria è più che sufficiente, come del resto basta qualche rudimento del calcolo, ma si tratta di vedere se la parte più importante della geometria, quella cioè che procede più innanzi, tenda verso la meta, se ci consenta insomma più facilmente di vedere l'idea del bene. E vi tendono, stiamo dicendo, tutte le discipline che costringono l'anima a convertersi verso quel luogo ove esiste colui che tra gli esseri è felicità suprema. L'anima deve veder lui ad ogni costo. Hai ragione, rispondeva. In conclusione, Se una disciplina conduce necessariamente a contemplare l'essere, conviene al nostro scopo. Se rimane soltanto il regno di generazione, allora non conviene. Diciamo appunto così. Ma su questo punto nessuno arriverà a dubitare della geometria, purché abbia anche piccola esperienza. Questa scienza è il contrario vero e proprio di quanto comunemente si dice da chi ne fa professione. Come? Mi domandò. Cosa vuoi? Ne parlano in modo ridicolo e da un punto di vista esclusivamente pratico. Sono gente d'azione. Tutto essi fanno avendo di mira uno scopo pratico. Quadrare, prolungare, aggiungere, e così di seguito, per usare la loro terminologia. In realtà, invece, l'intera disciplina si svolge per l'acquisto di cognizione. Va benissimo, rispondeva. E non si deve forse concordare su questo punto ancora? Quale? Che è coltivata per ottenere conoscenza di ciò che è eterno, non di ciò che di momento in momento nasce e perisce. Siamo d'accordo, rispondeva. È un fatto. Geometrica conoscenza è conoscenza di ciò che è eterno. Allora, mio generoso amico, è capace pure di strappar l'anima verso verità, capace di formare l'intelligenza del filosofo. Per tal modo rivolgeremo in alto quell'occhio dell'anima che ora, e non si dovrebbe, teniamo rivolto verso il basso, nel grado massimo possibile. Sarà bene dunque che, nel grado massimo possibile, nella nostra città bella, nessuno assolutamente, per nostra disposizione, si tenesse lontano dagli studi di geometria. Del resto, vi sono anche non piccoli vantaggi di non piccola importanza. Quali? Quei vantaggi che appunto enumerasti rispetto alla guerra, per esempio, e in genere rispetto a tutte le discipline, per acquistar cioè una facilità maggiore nello studio. Sai bene quanta differenza ci sia tra chi ha un po' sfiorato la geometria e chi non ne sa nulla. Una grande differenza, certo, disse lui. E allora prescriviamo pure che questa sia la seconda disciplina per i giovani. Prescriviamo pure, concludeva. Poi, continuando, senti allora, dobbiamo porre come terza l'astronomia, non ti pare? A me veramente sì, rispondeva. Ottima cosa è aver percezione in qual momento del mese o dell'anno ci si trovi, non meno per l'arte militare che per l'agricoltura e per la navigazione. Mi piace questa tua prospettiva, esclamai. Par davvero che tu abbia paura della gente comune. Non vuoi imporre inutili studi. D'altra parte è un fatto, non è cosa da poco codesta. Oh, difficile impresa è persuadere la gente che, per mezzo di questi studi, viene purificata nell'anima d'ogni uomo una facoltà che, oppressa e fatta cieca dalle altre occupazioni, acquista così fiamma novella. Facoltà che l'uomo dovrà cercare di mantenere incolume, più che tutti gli occhi di questo mondo. Col suo mezzo soltanto si vede infatti la verità. Chi dunque sia della tua stessa opinione, giudicherà che magnifici sono i tuoi argomenti. Quanti invece non ne hanno avuto la più piccola cognizione, naturalmente giudicheranno che le tue parole non concludono a nulla, in quanto non vedono derivare da queste discipline alcun vantaggio, alcuna tangibile conseguenza. Sola l'utilità pratica essi cercano. E prima di procedere oltre, considera anzi se parli all'uno o all'altro gruppo, o forse, meglio, lascia andare gli uni e gli altri, e per te stesso cerca di svolgere le tue argomentazioni, senza, d'altra parte, frapporre ostacoli a chi fosse in grado di trar da queste un certo giovamento. Sì, rispondeva, così scelgo senz'altro. Per la mia interiorità intendo soprattutto parlare, interrogare, rispondere. Su via, dunque, dissi, procediamo avanti. Ora, vedi, non abbiamo scelto bene la disciplina successiva alla geometria. Come l'abbiamo scelta? Domandava. Dopo la superficie, seguitavo, abbiamo preso il solido già in movimento, prima di considerarlo per se stesso. E invece la giusta via è considerare, dopo la superficie a due dimensioni, il solido a tre dimensioni. E senza dubbio questa terza dimensione è in rapporto con la dimensione del cubo e con quanto partecipa alla profondità. Sì, rispondeva, è così. Ma questa disciplina, o Socrate, non ha ancora avuto una sistemazione. Già, ripresi, e duplici ne sono le cause. Intanto, nessuna città la tiene in conveniente stima. Difficile poi, essendo nello studio, non se ne esperisce ricerca solerte. D'altra parte, chi si dedica ha bisogno di una guida sicura, a prescindere dalla quale non si fa alcun progresso. E, prima di tutto, trovare questa guida è difficile. Poi, anche trovato un maestro, come stanno oggi le cose, i cultori della disciplina non presterebbero ascolto alle parole di lui, dato l'alto concetto che di se stessi nutrono. Se invece lo Stato aggiungesse la sua iniziativa a quella di chi può presentarsi quale maestro, e se lo Stato mettesse in onore queste ricerche, ci si lascerebbe allora persuadere all'indagine e i problemi della stereometria, senza intermissione e appassionatamente indagati, finirebbero per rivelare tutta la loro entità. Del resto, anche oggi, in mezzo all'indifferenza, anzi all'ostilità generale, questa scienza tuttavia va diffondendosi, nonostante questi impedimenti, quasi a forza, per la sua stessa bellezza, e non sarebbe da stupire che un giorno acquistasse grande notorietà. Certo, rispondeva, come attrattiva ne ha e non poca, ma in ogni caso mi dovresti spiegare più chiaramente quello che dicevi ora. Tu ritenevi la geometria trattazione sulla superficie piana. Sì, dissi. E allora ponevi l'astronomia dietro alla geometria. In un secondo momento poi ti sei pentito. Sì, rispondevo io. Per far presto finisco con l'andar giù più a rilento. La scienza della dimensione in profondità è effettivamente contigua alla geometria, ma siccome l'attività di questa scienza può essere ritenuta nulla, tanto è scarsa, perciò cercavo di saltarla via e dopo la geometria enumeravo l'astronomia, scienza del movimento dei solidi. Hai ragione, concludeva. E allora poniamo come quarta disciplina l'astronomia. Riteniamo che la disciplina ora lasciata da parte avrà il suo posto qualora lo Stato ne favorisca lo studio. Par naturale, disse lui. Poco fa del resto, Socrate, mi hai fatto rimprovero perché ti pareva che le mie lodi all'astronomia fossero un po' banali. Ora invece posso esaltare questa scienza in modo conforme ai tuoi criteri. Oh, è davvero una cosa evidente per tutti. L'astronomia costringe l'anima a guardare in alto e conduce da questo basso mondo lassù, verso il cielo. Forse, soggiunsi, è una cosa chiara per tutti, non per me. A me, vedi, non pare che la cosa sia proprio così. E come allora? Ammessi i criteri con cui gli astronomi ai nostri giorni cercano di fare in modo che la loro scienza apra le vele verso il mare della filosofia, mi pare che ottengano un'unica cosa: ci fanno guardare a terra. Come dici? Molto stranamente ti raffiguri la scienza delle cose superne. E forse, se un tuo amico col naso in aria vede alcune figure nel soffitto e vi scopre qualche particolare, sei capace di concludere senz'altro che il tuo amico è immerso in teoresia altissima, e non con gli occhi, bensì con noetica facoltà. E può darsi che tu abbia ragione, l'ingenuo sono io. Io, vedi, sono convinto che una sola forma di cognizione possa dare all'anima il modo di rivolgersi a guardare in alto. E questa cognizione va speculando sull'essere e sull'invisibile regno suo. Nel caso invece del tuo amico che se ne sta a bocca aperta, guardando in alto, o anche a bocca serrata a guardare in basso, cercando di studiarsi bene le cose sensibili, per conto mio affermo che il tuo amico nulla impara, che niuna scienza esiste di simili cose visibili, che egli non guarda affatto in su, bensì con l'anima sua in giù. Anche nel caso che supino volesse imparare a nuotare, per terra o anche sull'acqua. Giustissimo il colpo, esclamò. Oh, tu mi hai rimproverato a piena ragione. Ma in qual modo dunque dicevi che si dovrebbe studiare l'astronomia? Un modo diverso da quello oggi seguito, seppur si vuol compiere i propri studi, in modo che servano allo scopo di cui si parla ora. Così, dissi io, l'infinita varietà dei corpi celesti è indubbiamente informata in luogo visibile. Ebbene, devi ritenere stupendi questi corpi dei cieli, perfettissimi nel loro genere. Ma quanto sono inferiori alle costellazioni che la mente concepisce per sé, vere, inferiori a quei movimenti che che l'essenziale velocità o lentezza possono addurre nel vero numero, inferiori a tutte le vere figure, sia considerando i loro moti reciproci, come pure i corpi per entro quel moto trasportati. E tutto ciò può essere colto con ragione e intelletto, con la vista per nessun modo. O lo credi? In nessun modo, rispondeva. Dobbiamo, insomma, continuai, valerci della varietà dei fenomeni celesti, come di tanti esempi, per attingere la cognizione di ciò che è invisibile. Sarebbe come se avessimo alcuni disegni tracciati con perfetto lavoro da Dedalo o da qualche altro artefice o pittore. Un esperto di geometria, osservando questi disegni, penserebbe che come fattura vanno benissimo, ma che sarebbe ridicolo studiarli quasi vi si potesse cogliere la verità assoluta dei rapporti di eguaglianza, di doppio o di qualsiasi altra proporzione. Indubbiamente, come non sarebbe ridicolo? E chi è veramente astronomo riceve la medesima impressione quando volge lo sguardo ai movimenti degli astri. Giudicherà che tali movimenti furono disposti dall'artefice del cielo in quella luce di perfetta bellezza che più era possibile, e il cielo stesso e gli astri che nel cielo vi sono. Ma se si tratta del rapporto fra le notti e i giorni, e del loro rapporto rispetto ai mesi, e dei mesi rispetto agli anni, e degli altri astri coi loro movimenti, e coi movimenti degli altri astri, non credi, in tal caso, che il nostro geometra giudicherà pazzo chi pensa che questi fenomeni si svolgano uguali perennemente, senza deviazione alcuna. Bisogna pensare che questi astri hanno un corpo, sono visibili, e il geometra, ciò nonostante, va cercando di cogliere in essi con ogni sforzo la verità perfetta di questi rapporti. Cosa vuoi? Disse lui. Adesso che ti ascolto, mi sembra che proprio sia così. Noi tratteremo allora l'astronomia come la geometria, ne faremo giusto uso, in quanto ci fornisce problemi da risolvere e lasceremo andare i fenomeni celesti, se proprio vorremo che il nostro studio dell'astronomia consegua trasformazione, in modo che da inutile, utile divenga la potenza intellettiva della nostra anima. Ma con ciò, rispondeva, imponi un lavoro ben più grande di quello che oggi affatica gli astronomi. Cosa vuoi? Conclusi. Anche per le altre prescrizioni non ci comporteremo, credo, in maniera molto diversa. Certo, non dovremo essere legislatori da nulla. Quindi gli dissi: del resto, mi sapresti suggerire qualche altra conveniente disciplina? Ma io no, al momento almeno. Non c'è un solo tipo, bensì molti tipi, dissi io, di movimento. Così credo almeno. Enumerarli tutti potrà essere compito solo di chi è sapiente. In ogni caso, due soltanto ci appaiono chiari. Quali? Oltre al moto già detto, ce n'è un altro che gli corrisponde. Quale? Potrebbe darsi che come la pupilla è stata formata per l'astronomia, così l'udito lo sia per il movimento dei suoni armonici. Così pure che le due scienze siano sorelle, come dicono i pitagorici, e noi pure, o Glaucone, concediamo. O dobbiamo concludere in modo diverso? No, così, rispondeva. Dunque, siccome il caso non è facile, chiederemo a costoro quale opinione abbiano in proposito, e così su qualche altro argomento oltre questi. In tutti i casi, durante questa operazione legislativa, manterremo sicuro il nostro punto di vista. Quale? Fare in modo che i nostri giovani non diano mai opera a studi senza scopo. Studi che non abbiano sempre quale finale risultato il punto verso cui i nostri sforzi debbono pervenire, come si diceva a proposito dell'astronomia poco fa. Non sai del resto che anche per l'armonia ti comincia un'impresa simile alla precedente? Infatti, commisurando l'uno all'altro gli accordi e i suoni percepiti con l'udito, si finisce per compiere fatica immane e senza risultato. Esclamò. Anche ridicola per di più. Chiamano scala diatonica una successione di certe note che non so bene, tendono l'orecchio e pare che cerchino di perseguire la voce del vicino di casa. E gli uni, ecco, sentenziano di distinguere bene nell'intervallo un certo suono particolare che, dicono, corrisponde al minimo intervallo e che dovrebbe servire quale unità di misura per ogni altro intervallo. Altri invece sono esitanti, perché credono Questo suono intermedio non lo si sente. In ogni caso, sia gli uni che gli altri mettono avanti all'intelletto il senso dell'udito. Ripresi. Tu mi accenni alle brave persone, a coloro che tanto danno da fare, alle corde, mettendole alle prove e torcendole sui bischeri. Del resto, non voglio fare la descrizione troppo lunga, con quei colpi battuti per mezzo del plettro, quegli atti d'accusa, sia perché le corde si rifiutano di suonare, sia perché suonano troppo. Come sono arroganti quelle corde. Insomma, lascio andare la descrizione e dichiaro che non intendo accennare a questi, bensì a quelli che poco fa si diceva di voler interrogare sull'armonia. Anche questi, vedi, fanno né più né meno la stessa cosa degli astronomi. Vanno in cerca di numeri che esistono in questi sensibili accordi, ma lo fanno senza risalire alle astratte questioni, ai problemi cioè da cui i fatti dipendono. In tal modo soltanto si potrebbe indagare quali numeri siano armonici e quali no, e per qual motivo avvenga l'uno e l'altro fatto. Tu parli, rispondeva, di un'indagine sovrumana. Ma utile, dissi, a quella indagine del bello e del buono che, se rivolta altrove, riesce invece inutile. È naturale, diceva lui. Sì, e credo del resto che se lo studio di tutte queste discipline da noi esposte riesce a intravedere una loro reciproca parentela e comunità, se si arriva a comprendere bene in qual senso siano reciprocamente affini, in tal caso lo studio e il lavoro speso per acquistarle porta indubbiamente laddove desideriamo, e la nostra fatica non sarà certo vana. Del tutto vana in caso contrario. Senza dubbio, rispondeva, indovino anch'io che così è, ma che immenso lavoro, Socrate. Intendi la fatica del preludio o a cosa vuoi accennare? Ma non sappiamo noi benissimo che tutti questi sono preludi della sonata vera e propria che dobbiamo imparare, perché costoro, pur valenti in queste discipline, non li puoi certo ritenere dialettici. No, rispondeva. Escludine forse qualcuno tra i molti che ho potuto incontrare. Ma chi non è in grado di darti una ragione dialogica e di comprenderla, potrà sapere ciò che, secondo noi, si deve sapere? No, nemmeno l'esclusione da me proposta ha valore. E allora, caro Glaucone, la sonata che dialettica eseguisce è appunto questa. La potenza della vista soltanto potrebbe imitare questa sonata puramente intelligibile. Si disse infatti che la vista fa prova di volgere lo sguardo dapprima agli animali, quindi agli astri e da ultimo al sole stesso. Allo stesso modo, quando si tende a far uso di dialettica, senza aiuto alcuno di dati sensibili, e ci si lancia, per mezzo del solo ragionamento, verso l'esseità, puro oggetto di singole cose, quando si continua in questo slancio, fino al momento in cui, con un atto mentale di pura intellezione, la mente colga solo il bene nel puro regno dell'essere, allora si perviene al limite estremo dell'intelligibile regno, come colui appunto che facendo uso della sola vista era pervenuto ai limiti del regno visibile. Hai ragione, rispondeva. E tutto ciò non verrà a costituire il viaggio del dialettico? Sì, vedi, seguitai, la liberazione dai ceppi. Conversione dall'ombre verso i simulacri e poi verso la luce, così pure ascensione verso il sole dalla sotterranea dimora, quell'impossibilità di vedere al primo momento gli animali, le piante, la luce del sole, quando il liberato ricorreva a immagini nell'acqua, ad ombre di cose che sono, ombre e immagini eccellenti e divine, e non queste ombre di immagini riflesse da un'altra luce, una luce di fuoco, pur sempre immagine, se la si considera in rapporto con la luce del sole. Tutto questo simbolo viene a significare il risultato di quelle discipline del preludio di cui si parlava. Esse producono infatti questa forza, capace di condurre in alto la più elevata facoltà dell'anima, verso la visione più sublime, colui che tra gli esseri è perfettissimo. Non altrimenti, poco fa, un tramite ascensionale per la parte del corpo più ricettiva di luce conduceva verso visione di fulgore nella corporea regione e nel regno visibile. Per conto mio, diceva lui, accetto magari senz'altro, eppure sono conclusioni che non si accolgono facilmente. come pure d'altra parte anche non è facile rifiutarle. In ogni modo, ammettiamo senz'altro che le cose stiano in questi termini. Su via, dunque, eseguiamo la sonata, e la dovremo eseguire con tutti i particolari, proprio come il preludio. Quale dunque la caratteristica di questa potenza dialettica? In quali specie si divide? Per quali vie procede? Le scienze accennate, come pare, sono soltanto iniziatrici. Quando a quella sei pervenuto, avrai riposo del cammino e il lungo viaggio avrà termine. Mio caro Glaucone, dissi, tu non sei ancora in grado di tenermi dietro. Per conto mio, impiegherò certo ogni buona volontà. Il fatto è che non si tratta più per te di pervenire a una riflessa immagine di quanto forma argomento del nostro parlare, ma lei stessa, la pura oggettiva verità. Così almeno a me pare che sia. E lasciamo stare se questa mia interpretazione corrisponde o no al vero. In ogni caso, io sostengo che i nostri allievi debbono vedere qualche cosa di questo genere. Non è vero? Sì. Sostengo pure che la potenza dialettica sola è capace di mostrare questa visione a chi è esperto nelle discipline ora esposte. In nessun altro modo, certo, è possibile. Già, diceva lui, sarebbe bene sostenere pure questo. In ogni modo, sul seguente punto, nessuno potrà porre in dubbio le nostre conclusioni, che una particolare disciplina tra le altre, tutte, colga sistematicamente l'esseità di singole cose in rapporto all'oggettività di ciascuna. Infatti, le altre arti tutte hanno, quale argomento, opinioni e umane passioni, hanno di fronte opere o di natura o dell'industria umana, generate le prime, composte e formate le altre. Hanno cura, insomma, di questi prodotti naturali o artificialmente composti. Le rimanenti, poi, anche se abbiamo ammesso che pervengano a cogliere qualche cosa dell'essere, la geometria e le altre discipline affini, vediamo bene come, se si considera l'ente, procedano quasi in sogno. Non si concede a queste di vedere nella condizione di piena chiarezza, fino a quando continuano a far uso dei postulati che non possono discutere, in quanto non ne possono dar ragione. E credi quindi possibile che l'attività di mente che parte da un principio non conosciuto possa diventare scienza? Certo, le conclusioni e i passaggi intermedi sono contesti armonizzati a opportuno consenso, ma contesti armonizzati con ciò che rimane del tutto sconosciuto. Non è possibile. In conclusione, la scienza dialettica, dissi, unica, intraprende questo viaggio rifiutando le singole ipotesi e volgendosi verso il principio vero e proprio, dove può trovare un punto sicuro, e l'occhio dell'anima dolcemente strappa e conduce in su, verso l'alto, quell'occhio oggi sepolto quasi in fangosa a lui straniera fanghiglia, e in questa operazione si vale, quali compagne di fatica, aiutatrici quasi in conversione dell'altre discipline. Noi, vedi, le chiamiamo tuttavia scienze, per abitudine soltanto, mentre sarebbe necessario un nome diverso, che esprimesse chiarezza superiore all'opinione e oscurità maggiore a quella della scienza. Poco fa le abbiamo determinate col nome di scienze dianoetiche. Del resto, non conviene una questione di nomi, quando si indaga su argomenti come quelli sui quali stiamo trattando. Certo, rispondeva. Ci basterà dunque un nome che possa indicare in certo modo con chiarezza la condizione del fatto quale si manifesta all'anima. Sì, basterà dunque, come in precedenza, chiamar la prima parte scienza, la seconda dianoia o cogitazione, la terza fede, la quarta affigurazione, e comprendendole con un'unica parola chiameremo le ultime due sezioni insieme opinione, le due prime invece atto mentale di pura intellezione. Così diremo che, come la condizione dell'essere sta alla generazione, così l'atto mentale di intellezione sta all'opinione. Quindi ciò che l'intellezione è rispetto ad opinione, tale anche scienza rispetto a fede, e di anoia o cogitazione discorsiva rispetto ad affigurazione, in quanto poi all'esatta proporzione delle cose alle quali i termini si riferiscono e in quanto alla divisione delle due sfere, opinabile e intelligibile, lasciamo stare, caro Glaucone. Non vorrei che questo ci impegnasse in discorsi ben più lunghi di quelli già fatti. Veramente sono d'accordo su tutto il resto con te, per quanto mi riesce di tenerti dietro. Ah, e non chiami tu dialettico chi è capace di cogliere l'essere oggettivo di ciascuna cosa, e chi non è capace, in quanto non sa coglierlo per conto suo e non sa darne ad altri ragione, sotto questo rapporto, non dirai che non ne ha conoscenza alcuna. Indubbiamente, esclamò lui, come lo potrei dire? E se si tratta del bene, non sarà lo stesso. Chi non è in grado di definire l'idea del bene, isolandola da ogni altro qualsiasi rapporto, chi non è in grado, quasi come in battaglia, di passare attraverso ad ogni avversario obiezione, fermamente deciso a discutere, non secondo opinione, ma secondo l'essere oggettivo delle cose, in grado insomma di procedere in tutte le sue operazioni con infallibile verbo. Chi non si trova in tale condizione, oh, tu dirai certo che non conosce il bene nella pura oggettività, come del resto nemmeno alcun bene partecipato. Costui, ammesso pure che pervenga qualche riflessa immagine del bene, vi perviene attraverso opinione, non certo per via di scienza. Costui, in questa presente vita, continuerà a far l'interprete di sogni e a sognar lui stesso, e prima di destarsi andrà nella casa dell'invisibile a dormire, in profondissimo sonno immerso. Tutto questo lo dirò certo, ma supponi di dover realmente educare quei tuoi figli, che parola ora viene alimentando ed educando. Insomma, non concederai certamente a questi tuoi figli, credo almeno, che incapaci di ragione, vere quantità irrazionali, governino lo Stato e si facciano arbitri di destini supremi. No, certo. Per legge allora stabilirai che prendano contatto con quel tipo di educazione in seguito al quale ci si concederà di diventare espertissimi in rispondere e interrogare. Sì, stabilirò questa legge, rispondeva, col tuo aiuto almeno. E non ti sembra che la dialettica venga a trovarsi a coronamento dell'opera nella più alta parte dell'edificio? Certo, non si deve porre più alta qualche diversa disciplina. Ormai con questa ha consummazione la nostra indagine. Mi par di sì, concluse. Allora ti resta soltanto la distribuzione. A chi cioè potremo impartire tale corso di studi e per qual modo? Evidente, rispondeva. Ricordi certo allora con quali criteri precedentemente si procedette alla scelta dei capi? E quali furono scelti? Come no? Quanto al resto, sei pure convinto che debbano essere scelte quelle nature appunto forti e valorose, così pure, per quanto è possibile, chi abbia una figura presentabile. Ma, oltre a questo, è necessario avere anche doni naturali per questa più alta educazione. E secondo te, quali sono? Debbono avere acutezza per ogni studio, debbono senza difficoltà apprendere. Vedi, l'anima rilutta assai più di fronte allo studio intenso che di fronte a esercizi ginnici. Questa fatica dello studio è affidata all'anima, anzi ne è propria, e a questa fatica il corpo non partecipa. È vero, rispondeva. E bisogna cercare chi sia tenace di memoria, resistente alla fatica e operoso. Per qual modo credi che altrimenti si vogliano accettare insieme le fatiche del corpo e portare a consumazione uno studio e una preparazione così perfetta? Certo, disse lui, per nessun modo, a meno che non si sia dotati di ottime qualità. Vedi, l'errore attuale per cui filosofia è tanto disprezzata si è formato, e l'abbiamo già detto, perché quanti se ne occupano non sono degni di lei. I bastardi non dovrebbero toccare quest'argomento, bensì i figli legittimi. Come? Domandava. Intanto, continuai, bisogna che chi si occupa di filosofia non cominci a zoppicare nell'operosità. Non deve essere un uomo che metà dei lavori compie bene e l'altra metà male, il che si verifica quando si sia bensì amanti di esercizi fisici, amanti della caccia, e in genere ad ogni attività sportiva, ma se si tratta di studio, si guarda male la fatica, non si ama stare attenti, non si ha curiosità di nessun genere. E zoppicante è pure chi ama la fatica dello studio e per nulla la fatica fisica. Verissimo, rispondeva, hai ragione. E così pure, con egual criterio, potremmo ritenere zoppicante di fronte alla verità quell'anima che ha bensì in odio ogni volontaria menzogna e la sopporta malamente, e quando altri mentono, sdegno grande l'invade, ma questa stessa poi, tranquilla, accoglie una menzogna involontaria. Non sente sofferenza se venga in luce qualche lacuna nelle proprie cognizioni. Ecco, come animale suino, tranquillo si rivoltola nella sua ignoranza. Hai proprio ragione. E anche rispetto a temperanza, ripresi, a fortezza, a magnanimità e a tutte le varie virtù, bisogna star molto attenti tra un bastardo e un legittimo. Infatti, quando una città o un individuo non sanno distinguere con tutti i mezzi un figlio dall'altro, si finisce per avere, senza saperlo, quali amici o quali governanti, uomini zoppi e bastardi. E saranno proprio questi che avranno compito di soccorrerci nei nostri bisogni. Purtroppo, esclamò, è proprio così. Insomma, si tratta di star bene attenti a tutto questo. Se accoglieremo in questi studi, in questo spirituale esercizio, per educarli, uomini forti di corpo e forti di mente, indubbiamente giustizia per conto suo nulla avrà da dire, e recheremo a salvamento la città e la sua costituzione. Se invece porteremo a cimentarsi in questa impresa gente diversa, otterremo risultati contrari e riverseremo su filosofia scherno più grande. Oh, brutta cosa sarebbe. È proprio vero, continuai. Del resto ora, al momento, mi è capitata una cosa un po' ridicola. Quale? Mi sono scordato che questo nostro non è più che un passatempo e ho parlato con troppa serietà. In quella che parlavo, rivolsi lo sguardo alla filosofia. La vidi oltraggiata e calpestata e un senso di vivo sdegno invase tutto il mio cuore. Mi pare, anzi, di essermi espresso con termini troppo severi, quasi adirato coi colpevoli. In nome del cielo, no? Non certo per me, tuo uditore. Ma per me che faccio il discorso, mi sembra di sì. In ogni caso, non dobbiamo dimenticare che in un primo momento potevamo anche scegliere qualche vecchio. In questa scelta ulteriore, invece, la cosa non sarebbe opportuna. Non bisogna dar troppo ascolto a Solone. Non è vero che invecchiando si diventi capaci di apprendere molto. Da vecchi si diventerebbe con più facilità campioni nella corsa, credo io. Insomma, le grandi e intense fatiche sono tutte retaggio di giovani, necessariamente. In conclusione, finché i custodi sono ragazzi ancora, conviene che imparino il calcolo, la geometria e l'intera preparazione iniziale. Preparazione che di necessità precede lo studio della dialettica. In ogni caso, non si tratta di rendere i nostri metodi di insegnamento troppo costrittivi. Perché? Perché un uomo libero non deve intraprendere alcuno studio come vincolo servile. Vedi, le fatiche e le esercitazioni fisiche intraprese costrittivamente non peggiorano affatto le condizioni dell'organismo. Invece, nessuno studio intrapreso per coercizione ha carattere di stabilità per l'anima. Vero, rispondeva. Per questo, mio caro, i giovani non li devi far studiare per forza. I giovani debbono pensare che si tratti di un gioco mentre studiano. Per tal modo, anzi, sarai anche in grado di distinguerne meglio le inclinazioni individuali. Eh sì, esclamò lui, hai ragione. E allora certo ricordi quando si disse che i fanciulli debbano essere condotti alla guerra e che a cavallo dovranno esserne spettatori. Anzi, dicevamo, se le condizioni di sicurezza lo consentano, è opportuno portarli vicino perché sentano l'impressione del sangue. Si fa così appunto coi cani cuccioli. Ricordo, rispose. In tutte queste esperienze, esercizi faticosi di studi, di pericoli, chi viene dimostrandosi più agile, bisogna metterlo da parte in un certo gruppo. A quale età? Quando si stia terminando il corso obbligatorio a base di educazione fisica. Durante questo corso, sia di 2 o di 3 anni, Il giovane si trova nell'impossibilità di attendere a qualche altra cosa. Stanchezza e sonno sono nemici dello studio. Questa prova, del resto, anche sola, non è la più disprezzabile, per vedere intanto le inclinazioni per gli esercizi fisici. Come no, concluse. Trascorso questo periodo, dai 20 anni in poi, quelli che saranno gli eletti avranno premi particolari. Inoltre, quelle discipline che furono insegnate nella scuola inferiore, quando erano fanciulli e con metodo disperso, bisogna allora raccoglierle in sintesi che ne dimostri l'affinità reciproca, come pure con la natura dell'essere. Sì, questa soltanto è una cognizione duratura e salda. Naturalmente è necessario avere un cervello capace, ed è anche la più grande prova per una natura dialettica e per natura che non sia dialettica. Una mente capace di pensiero sintetico e dialettica, chi non lo è? No. D'accordo, disse lui. Dovrai dunque tener presenti tutte queste considerazioni e quindi, procedendo ad ulteriore scelta sui giovani già scelti, a quelli, tenaci nello studio, tenaci nella guerra e nell'osservanza delle altre prescrizioni legali, allorché abbiano passato la trentina, dovrai affidare uffici più importanti. Osservare chi, reggendo alla prova della potenza dialettica, è capace d'abbandonare l'esperienza della vista e degli altri sensi e di volgersi sotto guida di verità verso l'oggettiva natura dell'essere. E a questo punto, amico mio, quanta attenzione bisognerà prestare. Perché mai? Disse lui. Non t'accorgi, replicai, quanto gravi siano le attuali condizioni della dialettica? Quali? Sai bene da quanti errori sono sviati i dialettici, purtroppo, rispondeva, e non ti pare che la loro specialissima condizione debba trovare un po' di compatimento? In che senso? Supponi, dissi, che ci fosse un fanciullo. Egli è figlio spurio. Viene educato tuttavia nel lusso. Attorno a lui servi in copia e adulatori d'ogni genere. Costui si fa adulto e s'accorge di non essere figlio di quelli che si dicono genitori suoi. D'altra parte non riesce a trovare i veri genitori. Sapresti indovinare l'atteggiamento di questo giovane verso gli adulatori e verso i supposti suoi genitori? Indovinare come si comporterà nel periodo in cui non sapeva la sua reale condizione? Quando invece la sapeva, ti piacerebbe sentire come me l'immagino io? Sì, mi piacerebbe, concludeva. Immagino dunque che egli terrà in conto maggiore degli adulatori, padre e madre, e in genere quelli che stima suoi parenti. Anzi, non vorrà affatto che i suoi cari siano mancanti di qualche cosa. Più ancora, nei rapporti con questi eviterà ogni parola e ogni ingiusta azione. Si guarderà bene nelle cose più importanti dal disobbedire a loro, assai più che agli adulatori. Tutto ciò nel tempo in cui il giovane non conosce la verità. Pare di sì, rispondeva. Accortosi tuttavia della sua reale condizione, immagino ancora, trascurerà di onorare i genitori e di tributare il dovuto riguardo. Si volgerà invece verso gli adulatori con animo benigno. Anzi, in confronto a prima, presterà fede a quanto gli si dice, regolerà la vita secondo i loro consigli e senza più riguardo alcuno si accompagnerà ad essi. Del padre poi d'un giorno e degli altri considerati prima parenti non si darà più pensiero, a meno che il suo carattere non sia molto buono. Tu esponi, rispondeva, ciò che potrebbe avvenire veramente. Ma in qual senso questo racconto simbolico si riporta a coloro che si dedicano alla dialettica? Così, sai bene che tutti, fin da fanciulli, abbiamo determinati principi sulla giustizia e sull'onestà. La nostra esperienza si è svolta sotto questa tutela. È come se questi principi fossero i nostri genitori, li seguiamo obbedienti e pieni di venerazione. Sì, è così. Ma anche abbiamo altri impulsi contrari a quei principi e contengono in sé, quale allettamento, il piacere. Oh, sono i veri adulatori dell'anima nostra questi impulsi. A sé trascinano l'anima. Certo, non arrivano a persuadere le nature in qualche modo temprate, che continuano a venerare quei tradizionali principi e a prestare obbedienza. Senti dunque, ripresi, supponi, a chi si trova in tale condizione si presenta il quesito: che cos'è una bella azione? Egli risponde con le conclusioni che ha udito dal legislatore. Allora cominciano le obiezioni, e sovente e più volte, attraverso discussioni e confutazioni, questa persona viene condotta a concludere che un'azione bella non differisce in nulla da una brutta azione. Circa il giusto, lo stesso. Così circa il buono e circa quei principi che costui teneva in massimo conto. Che cosa farà quell'uomo? Continuerà a tributare venerazione e obbedienza a quei principi? Purtroppo è conseguenza necessaria, rispondeva. Non venererà più quei principi e non vorrà obbedire al loro imperativo. Quando dunque, ripresi, non li ritiene più degni di rispetto o di venerazione? Quando non li giudica più come prima, a fini con se stesso, e d'altra parte non è capace di trovare la verità? Senza dubbio e naturalmente si volgerà, e solo a questa, a una vita capace di dargli continue adulazioni. È così, rispondeva. E allora l'uomo si manifesterà ribelle, non più ossequente alla legge, necessariamente. E non è codesta una condizione naturale in chi si dedica per tal modo alla dialettica. Anzi, come poco fa dicevo, quest'uomo merita compatimento. Sì, e che se ne abbia compassione anche. E allora, perché non debba sorgere in noi questa compassione per i nostri uomini arrivati sulla trentina? Si dovrà fare in modo che si dedichino alla dialettica con somma circospezione. Certo, disse lui. E non si riduce poi a unica cosa questa somma circospezione. Finché sono giovani, non debbono iniziare lo studio della dialettica. Ti sarai, credo, perfettamente accorto che i ragazzi, ai primi contatti con la dialettica, la trattano come un gioco. Subito se ne servono per contraddire su qualsiasi argomento. Si divertono poi a imitare chi ha l'iniziativa della confutazione e confutano subito le opinioni degli altri. Sembrano cagnolini, tutti lieti di tirare e di lacerare con la parola chi si imbatte in loro. «D'accordo!» esclamò lui. In conseguenza, quando hanno confutato le opinioni di molti, quando essi stessi, per opera di molti, hanno subito confutazione, finiscono ben presto e con piena conseguenza col credere che nulla più sia vero di quanto prima credevano. Quindi il dispregio in cui sono tenuti da tutti, e con loro ogni attività filosofica. «Verissimo!» rispondeva. Invece è un fatto, l'uomo più maturo negli anni, che non ne vuol sapere di simile follia, per scorgere la verità, si volge ad imitare chi afferma volontà di esercitare la dialettica, non chi ne fa un gioco, un divertimento, e continua sempre a contraddire. Insomma, per conto suo, sarà più moderato e potrà riverberare sulla stessa operazione stima, non disistima maggiore. Giusto, concluse. Del resto, anche le precedenti considerazioni avevano tutte questo scopo e a quello era rivolta ogni precauzione. L'indole dei singoli ammessi allo studio della dialettica deve essere ordinata e armoniosa, deve essere costante e salda, e il primo venuto che non ha alcuna disposizione non deve accingersi a quello studio. Certamente, rispondeva. E per apprendere la dialettica basta certo una dimora ininterrotta e intensa, senza distrazione d'altre occupazioni, per un numero d'anni doppio. Intendi, mi chiedeva, 6 o 4? Bastano benissimo, conclusi, 5 anni. E dopo questo periodo dovranno scendere giù di nuovo e ritornar cavernicoli. Dovranno assumere posti di comando in guerra e ogni ufficio conveniente all'uomo nei suoi anni giovanili. Non debbono, vedi, rimanere indietro rispetto agli altri per esperienza e per pratica. E ancora, durante questa loro attività, si dovrà stare attenti se rimarranno tetragoni, pur d'ogni parte qua e là trascinati, oppure anche se in qualche cosa vacilleranno. E la durata? 15 anni. Giunti poi sulla cinquantina, Il gruppo che potrà essere salvato e avrà pestato perfetto ogni suo ufficio, nella vita pratica e nella vita speculativa, dovrà finalmente essere addotto all'esperienza consummante. Si tratta di fare in modo che questi uomini, volgendo in alto la pupilla dell'anima, possano guardare proprio colui che all'universo e cose somministra luce. Mireranno così il bene per se stesso e da solo, e valendosi di quello come esemplare, potranno informare di cosmica armonia la città, i cittadini e se stessi per tutto il tempo della restante vita, ciascuno per suo conto, il più del tempo intanto trascorrendo nello studio di filosofia. Ma quando poi venga il momento assegnato, dovranno sperimentare la pena di un esercizio politico per il bene della patria, non certo come cosa desiderabile e bella, bensì necessaria e doverosa. Per tal modo, altri via via educando simili a sé, li lasceranno quali custodi al posto da loro già occupato, mentre intanto varcheranno alle isole dei Beati, prendendo ivi dimora. E la città potrà procurare pietre sepolcrali a ricordo e funebri offerte per pubblico decreto. Se poi la pizia darà consenso, saranno onorati come potenze superiori. In caso contrario, come uomini fortunati e partecipi del divino. Oh, Socrate, hai delineato il profilo di questi capi con perfezione somma, un vero scultore. Aggiunsi, anche le donne nel loro ufficio politico, o Glaucone. Non credere infatti che quanto dissi io abbia voluto riferire più agli uomini che alle donne. Naturalmente, quante hanno conveniente natura. Va bene, concludeva, dato che avranno in comune ogni ufficio con gli uomini, come abbiamo già concluso. Senti allora, seguitai, siete d'accordo che sulla città e sulla sua costituzione non abbiamo esposto utopie? Risoluzioni difficili, certo, possibili tuttavia in qualche modo, e in quel solo che abbiamo detto, quando cioè i veri filosofi, uno anche più, pervenuti nella città al potere, avranno forza di non stimare gli onori di oggi, ritenendoli illiberali e di valore nullo, in massimo conto invece rettitudine e gli onori che dà retta condotta, giustizia bene supremo e sommamente necessario. Allora, ministri di giustizia e bindici, questi filosofi infonderanno nel governo della città ordine e incremento. Con quali provvedimenti? Tutti quelli che si trovino nel territorio della città e abbiano oltre 10 anni debbono mandarli nei campi. Ne dovranno custodire i figli in modo da tenerli lungi dal tenore di vita caratteristico dei genitori. Li dovranno educare secondo i criteri e secondo le leggi che abbiamo fatto oggetto d'esposizione. Per tal modo, rapidamente e con la massima facilità, potranno dare inizio a quella costituzione di cui stiamo parlando. E prosperi tempi conseguiranno, e il popolo che vedrà fatta realtà la grande riforma sarà un popolo felice. Sì, certo, rispondeva. E tu, o Socrate, hai trovato il modo di attuare la riforma, ammesso che un giorno possa attuarsi. E non ti pare, continuai, che questi miei ragionamenti siano sufficienti ormai? Abbiamo trattato d'una costituzione, così pure d'un individuo che in sé ne porta l'effigie. È chiaro, infatti, quale debba esserne il carattere. Chiaro, diceva lui, e pare a me che, come affermi, la discussione su quest'argomento sia finita.